La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. In un certo momento non si può parlare di lavoro, è una missione. Un servizio. Tu vivi insieme con questo personaggio che è il Papa, cambia la vita. E grazie a lui io ho potuto riscontrare tante belle cose, stando vicino a tanta gente, milioni di persone, cambia proprio la vita. Classe 1940, Arturo Mari è un ragazzo di Borgata, un romano cresciuto a Borgo Pio, all'ombra della cupola di San Pietro. Il padre, fotografo amatore, lo avvicina a quella che sarà la sua professione. Arturo sarà per tutti il fotografo del Papa. Vivrà al fianco di Giovanni Paolo II per i 27 anni di pontificato. E quella sarà la cosa che cambierà il corso della sua vita, che segnerà una crescita spirituale che farà diventare Arturo l'uomo profondo che è oggi, qui nell'intervista rilasciata alla nostra Katia Caramelli. Mio papà era amatore di fotografie, sviluppava microfilm, no? E nasce da lì, avevo 6 anni, e quando papà tornava dal Vaticano, perché mio papà insieme al padre Kirschbaum è la persona che ha scoperto le ossa di San Pietro, e lui dirigeva i lavori, il padre Ghisma era archeologo, e hanno scoperto le ossa di San Pietro, la parete dei graffiti e via discorrendo, e papà fotografava e poi il pomeriggio sviluppava e sistemava il tutto. Io scendo da scuola, andavo con lui e l'aiutavo, e lì nasce un po' il tutto. Lì è nata la sua passione e anche il rapporto poi con il Vaticano, diciamo. Esatto. Quando ha cominciato a fotografare i papi? Io il 9 marzo del 56 sono entrato all'Osservatore Romano, perché il Conte della Torre voleva conoscermi, perché era un po' una favola questa mia esperienza di enfant prodige per la fotografia, e nasce un po' così la storia come una favola. Per cui il 9 marzo del 56 sono entrato all'Osservatore Romano e dopo una settimana subito ho attaccato a Papa Pio XII. La prima foto se la ricorda, la prima fotografia? Circa 10 giorni che ero di servizio, diciamo, era un mercoledì, udienza generale nella Basilica di San Pietro, Pio XII usciva dalla Cappella della Pietà, come usciva dalla Cappella della Pietà sulla sedia gestatoria, la sedia gestatoria si fermava e lui si metteva in piedi, e siccome era una figura ascetica molto alto, fece un'apertura di braccio dando la benedizione alle persone che partecipavano all'udienza. Io in quel momento ho scattato una foto che poi era molto bella e ha fatto il giro del mondo. Per quel tempo, insomma, era stata una cosa un po' fuori dalla norma, e quando si parla di queste cose bisogna calcolare sempre in che anni sono successi. Certo. Mari, è comunque innegabile che lei poi ha avuto un rapporto particolare con Giovanni Paolo II. Non ha mancato lo stesso Giovanni Paolo II di dire che la considerava come un figlio. Esatto, io altrettanto, per me era come mio papà, perché la grande fortuna che abbia conosciuto il Papa al tempo del Concilio Ecumenico Vaticano II, lì nasce un po' l'amicizia. E poi con l'andare del tempo l'ho visto come Giovanni Paolo II, non è cambiato niente, anzi, tutt'altro, è subentrato un rapporto, cioè si lavorava in famiglia, era una famiglia, non c'era la differenza il fotografo, il Papa, Paolo, fotografo, ecco, queste in due parole, in sintesi, il rapporto era questo. Lei infatti dice, nell'appartamento per me non c'era mai una porta chiusa. Esatto. Che vuol dire? Nel senso che lei era proprio coinvolto nella vita del Papa, in tutte le sue cose? Guardi, io entravo la mattina alle 6:20, uscivo da casa, alle 6:30 entravo nell'appartamento del Papa e lì si andava avanti tutto il giorno. Per cui, ripeto, era un rapporto padre-figlio, torno a ripetere, per me l'ho reputato sempre come il mio papà e lui mi ha trattato come un figlio, per cui si lavorava benissimo, e stando in casa uno gira tranquillamente, non c'erano problemi, ecco. E che persona era nella sua quotidianità Giovanni Paolo? Una persona molto umile, molto sono intelligente, molto umile, un uomo che sapeva essere quella persona un gradino sopra gli altri, per la sua intelligenza, ma questo era dato dalla sua umiltà, sempre la preghiera, il suo comportamento personale che lasciava quel carisma che è un po' difficile da spiegarsi, una cosa tutta particolare. Lei ha capito subito, diciamo così, di essere vicino ad una persona, lei dice un gradino su, quindi un santo. Esatto, tu guardi, in due parole io gliela concretizzo, per me è stato un santo in vita, come nella morte, adesso per me non ha fatto nessun divergenza, nessun riferimento o vivo o morto, perché tutto ciò che io ho potuto vedere con i miei occhi, ascoltare con le mie orecchie, danno una conferma a questa affermazione che dico, era un santo in vita. Poi basta vedere un po' che cosa è riuscito a fare, perché per me i miracoli non esistono, secondo il mio punto di vista, secondo il mio ragionamento è prettamente personale questa tesi, i miracoli non esistono solo alza e cammina, ma esistono anche quando cade il muro di Berlino e ci stanno milioni e milioni e milioni di persone che vivono, hanno la pace, possono parlare, libertà. E questo io non so come lei lo vuol battezzare, per me è un miracolo. La prima volta. A Roma circolava una battuta che recitava più o meno così. Chi è quell'uomo vestito di bianco accanto ad Arturo Mari? L'uomo vestito di bianco era il Papa e Mari era il suo fotografo. Giovanni Paolo II lo trattava come un figlio. Una volta, racconta lo stesso Mari, durante una visita tra Clinton e il Papa, Wojtyla disse al presidente degli Stati Uniti: «Sai chi è lui?», indicando Mari, e Clinton rispose: «No». Allora il Papa disse: «È Arturo, per me è come un figlio». La vita di Mari, la prima volta, la svolta esistenziale e quella professionale sono tutte concentrate in questo incontro col Papa, un incontro che durerà 27 anni, giorno dopo giorno. C'è Arturo quando il Papa pronuncia queste parole il 9 maggio del 93 ad Agrigento nella Valle dei Templi. Il Papa ha appena incontrato Rosalia Corbo e Vincenzo Livatino, anziani genitori del giudice ucciso dalla mafia. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Crescere in un ambiente di così elevata ricerca spirituale cambierà la vita di Arturo Mari, come racconta nell'intervista rilasciata a Katia Caramelli. Guardi, per me non c'è una cosa più bella, per me sono stati tutti momenti belli, sempre occasioni una meglio dell'altro, e questo ha dato la possibilità a me di dare al mondo le immagini migliori del Papa e far vedere il suo lavoro, la sua, diciamo, modestia, tutto quello che il suo carisma. Se non riuscivo a questo, avevo fallito il mio lavoro, per cui tra i più difficili però sicuramente c'è stato l'attentato che lei è stato costretto a fotografare. Guardi, sì, è successo, io ero a mezzo metro da lui, uno shock, mio papà è morto, mi è caduto il mondo davanti a me a mezzo metro, era finito tutto, sono attimi che uno non sa cosa pensare. L'unica cosa che non riesco ancora a capacitarmi, le fotografie. Io dico soltanto: guardi, non sono bravo, non sono nessuno, sono una persona normale. Come ho fatto queste fotografie io personalmente non mi ricordo. La cosa più importante è che le fotografie ci sono, la storia ha una documentazione, ma non mi chieda come ho fatto, perché non saprei darle una risposta. Direi una bugia se dico sono stato bravo, ho fatto questo, no, direi solo una bugia. Lei ha ricordato in diverse occasioni anche come ha vissuto le ultime ore di vita del Papa, ha avuto il privilegio di recarsi a salutarlo. Sì, questo è vero. Dos Anisao, il segretario del Santo Padre, mi ha chiamato circa 8 ore prima che lui lasciasse la vita terrena e mi ha convocato in appartamento, mi ha portato vicino al suo lettino. È stato un momento per me emozionante, un momento più bello, brutto, non posso dirlo brutto perché con la malattia lui ci ha insegnato tante cose che ci ha portato a un ragionamento di poter comprendere e condividere la sofferenza, la sua grande sofferenza che aveva, perché anche noi stando vicino si partecipava e si faceva coraggio nell'aiutarlo, sempre con quella dignità, sempre con quella forza che aveva in se stesso, per cui quando io sono entrato nella stanza lui era coricato sul lato sinistro. Quando tutti dicevano che il Papa aveva tubi qua sotto e sopra, non parlava, non capiva più niente, queste sono tutte falsità che hanno avuto esito come hanno fatto, non lo capisco neanche io. La realtà dei fatti era che lui era coricato sul lato sinistro, per correttezza devo dire che aveva una mascherina di ossigeno, ma questa mascherina di ossigeno era sul cuscino, non addosso. E quando Don Stanislao ha detto al Santo Padre, Santo Padre, Arturo è qui. Ecco, la cosa che a me mi ha scioccato di questo momento è vederlo girato con un sorriso, quel volto, un sorriso enorme che erano mesi che non si vedeva quell'espressione, questi occhi grandi, azzurri, penetranti. È una cosa che, questo qui è quello che mi ha lasciato scioccato. Lì mi ha accarezzato, mi ha benedetto più di una volta, è stato abbastanza dolce, proprio un padre poteva fare una cosa del genere. Lei dice, alla fine con un filo di voce fa: Arturo, grazie, grazie. E poi sempre con questo sorriso si è di nuovo rigirato sul lato sinistro con questi occhi enormi, sorridenti, ma si vedeva già che lui era pronto per un viaggio ancora più bello, non lo lasciava trasparire dal viso. E questo per me è stato il momento più forte e più bello della mia vita. Un Papa che ti dice grazie è il punto di morte, non stiamo scherzando. Questa è la realtà dei fatti. Oggi sente la sua mancanza? No, guardi, a me personalmente non mi manca. Vado quando posso sulla tomba a pregare, quello sì. Ma non mi manca perché io me lo sento sempre dietro le spalle durante il giorno, quando lavoro, faccio sempre quella voce. 27 anni è una vita, non è uno scherzo, non puoi lasciare, te lo senti dentro, io personalmente non sento la sua mancanza. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre la prossima domenica alle 13.30. Potete riascoltare le puntate in podcast e scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Into the distance, ribbon of black.